3 luglio 391. Le fiammelle che si sprigionano dalle lucerne tremolano. Io non riesco a staccare gli occhi dal rotolo. La calligrafia è quasi indecifrabile. Alcuni denominano atomi certi corpi incorruttibili e minuscoli, costituenti una pluralità innumerabile, e presuppongono che vi sia una regione di spazio vuoto di grandezza illimitabile. Aggiungono poi che questi atomi sono portati dal movimento nel vuoto, così come capita, e incontrandosi casualmente tra loro per l'impeto privo di ordine che li caratterizza e intrecciandosi insieme per la varietà delle loro configurazioni, determinano la genesi del cosmo e di ciò che vi è contenuto, o meglio, di infiniti mondi. Infiniti mondi! La mia povera mente non ce la fa immaginare. È la prima volta che si trova ad affrontare concetti che mi schiacciano in questo cunicolo. Allora, Shalim, non vorrai esaminare tutto quello che porterai via? La voce di Pazia mi scuote dalla commozione che mi ha assalito leggendo alcuni brani dei rotoli che sto sistemando nella prima anfora. Mi giro verso di lei. Sta deponendo per terra la cesta piena di papiri. Arrotolo il foglio che stavo scrutando, lo infilo nella finestrella dell'anfora, lo adatto nel poco spazio rimasto, premo. Ipazia mi porge la tavoletta di legno circolare, prende una lucerna e mi fa luce più da vicino. Riesco a infilarla e sistemarla proprio sopra i rotoli come un tappo. Ipazia mi porge la ciotola con l'argilla, ne distribuisco uno strato sulla tavoletta all'interno dell'anfora, sigillandola perfettamente. Lascio che dia un'occhiata. Amica soddisfatta. Ottimo lavoro, Shalim. Quanti rotoli ci sono entrati? 9. L'argilla ci metterà 5-6 clessidre a seccarsi. Ora ci rimetto la finestrella che ho tolto prima. Più tardi riempio la parte superiore con la resina e la prima anfora è pronta per il trasporto di domani. E appoggio il falso sarcofago alle nicchie rettangolari. Quindi con una ventina di anfore ce la dovremmo fare a portar via tutto quello che ho preparato. E mi indica le ceste poggiate in mezzo a noi. Gli occhi azzurri di Pazia sono illuminati da un fuoco giallo-oro, la cui luminosità non si attenua mai. È la luce che sprigiona un maestro. Si sforza di essere una creatura come me, come gli altri, che fa di tutto per partecipare alla vita quotidiana con semplicità e naturalezza, ma lei sa che cammina in un'altra dimensione. Dimmi, Shalim, li hai trovati difficili i brani che hai letto? No, non ci ho capito molto, ma mi sono reso conto che sono concetti rivoluzionari. Ah, Democrito, Leucippo, Anassagora. E Metrodoro di Chio, continua lei, Diogene di Smirne, Anassarco di Abdera, e Apollodoro, e Cateo di Abdera, Nausifora, e Distino, Bolo, e Bione di Abdera. E allarga le braccia con quel gesto che significa esplosione di luce, di gioia, di amore. Democrito, il più grande in assoluto, vissuto oltre 8 secoli fa. E poi c'è Moco, lo scienziato fenicio, e mi segnala il cesto sistemato proprio accanto a me. Quelli sono i miei commenti a degli studi compiuti al Museion all'epoca della Biblioteca Madre. Commenti a dei commenti. È poco, ma è sufficiente per capire che Moco, vissuto oltre 1000 anni fa, ebbe grandi intuizioni, forse più dello stesso Democrito. Teorizzò addirittura che l'atomo è divisibile. Oh, se riuscissimo un giorno a trovare i suoi scritti originali! E protende le braccia verso di me, oltre me, mentre lo sguardo pieno di determinazione vaga tra i rotoli nei cesti. Non è possibile che tutto sia accaduto per caso, che tutta la luce imprigionata in questi papiri svanisca così. Questi uomini hanno gettato uno sguardo nelle profondità della natura, come atto di gratitudine verso la vita e con il sogno di un mondo migliore. Non dobbiamo permettere a nessuno di soffocare questo sogno. E resta così, protesa, in un gesto che ha il potere di accendere la favilla della speranza. Poi sembra tornare alla realtà e mi lascia al mio lavoro. Mi verrà a chiamare, allora nonna vuole che io assista a una lezione di epistemologia. L'aula grande del centro studi è una parte dell'ala destra della biblioteca, ovvero del portico sotto il tempio di Serapis. È un insieme di banchi di legno oscuro, sistemati a diversa altezza, in forma semicircolare, all'aspetto di un piccolo teatro. E al posto della scena, due grandi tavoli di marmo bianco, dietro i quali è fissata alla parete un'enorme lavagna nera. In alto, scolpito su una lastra di marmo adornata con girali di acanto, a caratteri cubitali, il pensiero di Aristotele. Tutti gli uomini aspirano per natura al sapere. Potrebbe contenere una cinquantina di studenti, ma adesso sono soltanto 9 e 2 sono ragazze. Ipazia, dopo avermi fatto conoscere uno per uno i miei futuri compagni di studi, ha voluto che sedessi in mezzo a loro. Penso che siano tutti poco più grandi di me, tranne forse una delle ragazze, Valeria, che sembra molto giovane. Teone, dopo un breve discorso introduttivo teso a riassumere il significato di epistemologia, cede la parola alla figlia, mentre sulla sua faccia paffuta svaniscono le tracce di una tensione interiore che cede il posto a una chiara soddisfazione. E mentre Ipazia parla, lui la segue attentamente, modellando con le labbra le parole che lei va scandendo, a volte precedendola. Sulla lavagna disegnerò uno schema che farà da riepilogo alle lezioni precedenti e in cui fisseremo alcune delle principali differenze tra le concezioni di Aristotele e Democrito, per poterle poi commentare con il vostro contributo. Dunque, sulla prima colonna scrivo un solo mondo. Sulla seconda, quella di Democrito. Che devo scrivere? E si gira, frugando tra gli allievi con i suoi occhi luminosi. Un giovane che siede accanto a me, Nicandro, risponde: più mondi possibili. Puoi chiarire il concetto di Democrito con poche parole? Chiede lei. E gli atomi che, come ci hai spiegato, vogliono dire indivisibile, muovendosi nel vuoto, incontrandosi e scontrandosi, aggregandosi e disgregandosi in una vibrazione o pulsazione eterna, generano mondi infiniti. Puoi completare tu, Valeria, questo concetto? La ragazza continua l'esposizione di Nicandro. Quando gli atomi si muovono nel vuoto, creano dei vortici e questi vortici generano dei mondi infinitamente vari e diversi tra di loro. Questi mondi, composti di vuoto e atomi, sono destinati a scindersi e distruggersi. E quindi cosa potremmo scrivere per riassumere? Chiede Ipazia. E per esempio, parlando del vuoto, potremmo scrivere che per Aristotele è impossibile questo concetto, mentre per Democrito il vuoto è indispensabile. D'accordo, scriviamolo dunque. E con il gesso completa il rigo sulla lavagna. Nel breve trascorrere di due clessidre, coinvolgendo quasi tutti gli allievi, Pazia riempie le due colonne. Poi depone il gesso sul bordo superiore della lavagna. Si sfrega la punta delle dita e ci fissa con uno strano sguardo di sfida. Guardiamo bene la tabella. Un ottimo lavoro riassuntivo che ci è servito a configurare due visioni alternative e conflittuali non solo della scienza, ma del mondo, della vita in generale e della nostra vita. Infine, e non poteva essere altrimenti, abbiamo appena accennato e scritto nella casella di Aristotele esistenza di un livello soprannaturale e in quella di Democrito autosufficienza della natura. E qui potremmo cominciare una discussione che non avrebbe mai fine, ma oggi ci siamo riuniti per affrontare una lezione di epistemologia, un discorso intorno alla scienza e ai metodi usati dagli uomini di scienza. E sorridendo nella direzione di Valeria e di Ottavia, e dalle donne di scienza, visto che qui siamo ben rappresentate, per accertare la validità delle nostre affermazioni. Nonostante le difficoltà in cui operiamo, malgrado siamo costretti a non studiare sui testi originali di questi grandi scienziati, di cui ci sono pervenuti solo dei frammenti o dei commenti ai frammenti. E ora non torno a ripetervi del povero Giulio Cesare che incendiò la biblioteca madre, altrimenti la sua anima un giorno viene a turbarci il sonno. Ebbene, nonostante tutto, siamo riusciti a concludere questo corso. Ma non siamo stati capaci di dare vita a qualche concetto originale, completamente nostro. Noi non abbiamo aggiunto un solo elemento al sapere antico. Mentre parla, Ipazia sembra trasformarsi. Dal finestrone in alto piove l'oro del sole che la inonda. I capelli sono legati a coda di cavallo da un fiocco rosso. Tiene le mani racchiuse a pugno come se dentro nascondesse un segreto. È piccola di statura, eppure è una figura grandiosa. Noi siamo dei piccoli mondi, dice. Forse gli unici capaci di scavare nella nostra natura, nella nostra identità. Siamo dei piccoli soli che studiano e investigano sul come e sul perché bruciano ed emettono luce. Io devo molto a mio padre, così come noi tutti dobbiamo molto a tutti gli uomini e le donne di scienza che ci hanno preceduto. Siamo in numero esiguo, è vero. Il resto del mondo in questo momento sta facendo la guerra, sta lavorando, si sta riproducendo, sta viaggiando, sta uccidendo, sta amando, sta soffrendo ed esultando, e questo da migliaia di anni. Il perché poi solo pochissime creature si dedicano allo studio e all'indagine non lo possiamo sapere, ma una cosa è certa. Il nostro intuito ci spinge a comprendere la realtà. È una fiamma che si è accesa dentro di noi, nella nostra mente, nel più nobile dei nostri organi. Qui c'è un motore tenuto in vita dal nostro desiderio di conoscenza. Questo motore, disse Protagora, è la misura di tutte le cose. Teone e tutti gli allievi sono rapiti dalle parole della giovane scienziata. Io ho quasi paura di respirare e interrompere questa atmosfera magica. Allora, Democrito ha detto che le differenze tra gli elementi, la figura, l'ordine, la posizione, sono la causa di tutti gli altri. L'essere, afferma Democrito, differisce solo per proporzione, per contatto e per direzione. Infatti la proporzione è la forma, il contatto è l'ordine e la direzione è la posizione. Ipazia protende le braccia verso di noi e schiude energicamente le mani. E il movimento? Da dove deriva? Come si trasmette il movimento negli esseri? È possibile che nessuno se lo sia mai chiesto? Torna a formare un solo pugno con le mani. A partire da oggi, senza tralasciare le altre materie, io concentrerò la mia abilità nel produrre conoscenza scientifica principalmente nello studio del movimento. E non solo. Non basta più lo studio teorico. Ippocrate diceva che approvava la teoria solo se era basata sui fatti e se le sue conclusioni concordavano con i fenomeni. Per ogni legge fisica occorre provare se è effettivamente come l'abbiamo elaborata. A tavolino con formule matematiche. Occorre provarla e riprovarla. Solo allora potremo dire che quella legge di natura che abbiamo scoperto con il nostro intuito ed elaborata con la nostra indagine intellettuale, allora e solo allora potremo dire che è vera, perché funziona, perché domani, alzandoci al nuovo giorno, la riproveremo e funzionerà di nuovo. Dobbiamo passare alla scienza sperimentale, altrimenti non andremo mai avanti. Si gira verso di me. Shalim, nei prossimi giorni mi aiuterai. Devo ultimare la costruzione di un astrolabio. Dovrà essere uno strumento perfetto che servirà a determinare l'altezza degli astri sull'orizzonte. Servirà per i nostri studi di astronomia. Aiuterà la navigazione. Lo schema in via di massima è già pronto. E protende le mani in un gesto che pare voglia ricordarmi il mio nome, colui che rende saldo. Ipazia, Teone. E voi tutti, e mi giro emozionato verso i compagni del centro studi. Finora ho lavorato per produrre fogli di papiro, ho anche studiato, ma da solo, sempre solo, mentre oggi ho raggiunto il mondo a un'altezza che prima era solo un sogno. Potete contare su di me. Solo questo riesco a dirvi. I miei compagni mi circondano, vogliono parlare con me, e così comincio a familiarizzare con Nicandro, con Valeria, Ottavia, Erculiano, Ausenzio, Esicchio, David, Samuel e Olimpio. Sto accompagnando Teone a casa, col suo carro trainato dal vecchio cavallo bianco. Abbiamo attraversato già tutta Via del Soma e ora stiamo percorrendo Via Canopica. Sta per finire l'ora undecima. La calura del giorno estivo si è attenuata. Teone è stranamente taciturno, ma quando abbandoniamo la grande arteria per entrare nel quartiere Brucchion, con la coda dell'occhio mi accorgo che sta mimando un discorso parlando con se stesso. Siamo costretti a procedere ancora più lentamente a causa di un assembramento di folla. Poco dopo, svoltiamo a destra e affrontiamo Via del Sole. Quando siamo davanti alla casa, un verde spiazzo frastagliato di pini, il cavallo si ferma e Teone sembra accorgersi della mia presenza. Andrà avanti per la sua strada, assieme a noi o da sola. Ipazia farà la storia. Hai visto mentre parlava, mentre quel fascio di luce la illuminava, che hai provato, Shalim? Ed è come se la sua schiena ricurva trovasse la forza per ergersi. Ero emozionato, signore. Era come se in quel momento attorno a me ci fosse l'umanità intera. Era come se io avessi perso la mia individualità. Allora non è solo il mio cuore di padre. Mi pone una mano sulla spalla, la stretta delle sue dita è una richiesta di estrema attenzione. La sua vita è preziosa, dobbiamo vigilare su di lei. I suoi occhi cambiano da vigili a teneri, avvolgo la sua mano con la mia, cercando di liberare il suo sorriso guardingo, timoroso. Sta per finire la dodicesima ora e il tramonto è ormai vicino. Ipazia ha voluto che la raggiungessi qui, all'isola di Faros, non alla parte orientale dove giganteggia il faro, ma a questa, occidentale, alla punta estrema, al tempio di Posidone, e che portassi con me la cetra e l'aulos. Il tempio è situato a pochi passi da me, davanti alle rovine sommerse del piccolo porto antico che ospita una nave. Davanti a noi un'isoletta, a uno stadio di distanza uno scoglio quadrato emerge dall'acqua spezzando la scia dorata. A quest'ora non c'è nessuno, solo il cavallo nero di Ipazia e quello di Teone che pascolano liberi. Sediamo sull'ultimo gradino in alto all'entrata del tempio. Dinanzi a noi una brezza gioiosa disegna una miriade di isolette di luce dorata sul mare, che sta preparandosi ad accogliere il sole rosso del tramonto sospeso all'orizzonte. La mia maestra pizzica le corde della cetra, poi scrive su un foglio di papiro, con un gessetto di cera, delle notazioni musicali. Il foglio è sistemato in mezzo a noi, sul marmo del gradino. Ipazia siede alla mia sinistra, indossa una tunica celeste, sandali e lacci le fasciano le caviglie, i capelli bruno-oro legati da un nastro rosso. Pizzica una corda, un breve arpeggio, allunga la mano, traccia dei numeri, resta così il gessetto premuto sul papiro. Solleva gli occhi su di me. Questa è la musica, Shalim, la scienza del modulare bene, dello stimare la giusta misura della durata di un arpeggio, di una parola, ma credo che anche in questa scienza siamo molto in ritardo. Dobbiamo studiare, studiare e individuare una legge dei numeri che ci serva a ordinare queste note. Magari il rapporto aureo. E torna a pizzicare una corda facendola vibrare a lungo. A ordinare il canto ed emette un suono delicato con la bocca chiusa. È nient'altro che una scienza e come tutte le scienze è sotto la guida della ragione, e scrolla lievemente il bel capo riccioluto. Sono concorde con Agostino quando dice che è un'arte, e l'arte non può che essere una disciplina razionale. Perdonami, Ipazia, ma non sono d'accordo con quello che dici. E timoroso d'aver trovato il coraggio di dissentire, immergo lo sguardo nell'orizzonte che si sta incendiando. La mano di lei mi sfiora la spalla, vuole che la guardi. I suoi occhi vibrano di curiosità. Ipazia, ho paura che la ragione a volte possa diventare una gabbia, un freno. Certo, concordo che tutte le arti devono essere guidate anche dalla ragione, ma non nel momento della creazione. È difficile spiegare quello che sento dentro. Zev t'ha raccontato delle dispute che ho avuto con Agostino 2 anni fa. E sai che ultimamente sono molto critica sulle sue scelte, ma per quanto riguarda la musica non posso che concordare con lui su tutto. E mi toglie la mano dalla spalla. Un suo pensiero è chiarificatore quando dice: osserva il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi splendono. in alto o in basso, camminano, volano o nuotano, hanno forme perché hanno numeri. Strappaglieli e non saranno più nulla. E mi fissa con quegli occhi che rappresentano la purezza della creazione. No, non riesci a convincermi, non si può pensare sempre soltanto in termini di numeri. Perlomeno non nella musica, al momento della creazione, bisogna essere liberi di far piovere dal cielo, da quel sole che ora sta nascondendosi nel mare, dal volo di questi gabbiani, la melodia di un canto. Dai, i pazzi, approviamo. Io comincio a mettere delle note con l'aulos. Tu cerchi di accompagnarmi con la cetra, e poi, se quel sole lì davanti ti detta qualcosa, canta liberamente, senza pensare ai numeri. Dai, proviamo. Afferro l'aulos. Emetto dei suoni accennando una melodia. Ipazia, quasi timorosa, prende a sfiorare la cetra. Io ripeto l'armonia e lei l'accompagna ed ecco che prende a cantare una melodia dolcissima, strana, mai udita prima in una lingua sconosciuta. Io le vado dietro con l'aulos, la cetra l'accompagna, ma è la sua voce che prende a scivolare sulle onde, verso il sole. Ecco, Ipazia, così, vola sul mare, ti tengo per mano, non temere, ti proteggo. La tua voce è una stella sospinta dal vento, è l'onda di una vita che ormai ti appartiene. Mia signora, stai schiudendo la tua anima a me. E mentre l'astro di fuoco si spegne nel polverio infuocato del mare, la voce di Pazia diviene dolcissima e si rifugia nella cetra che la sovrasta, e io spengo la voce del mio flauto. Ipazia si gira verso di me, spaurita, scioglie le sue dita dalle corde della cetra, protende il braccio e le sue dita sfiorano i miei occhi. Shalim! Sei emozionato, anch'io non avevo mai provato nulla di simile nella mia vita e mi inonda con il suo sguardo puro. Da dove proviene questa melodia? Non è una mia composizione, questo è un punto nero, oscuro, misterioso del rapporto spazio-tempo. Io stentavo a capirti prima quando parlavi di creazione. La ragione ha rovesciato molti falsi idoli, ma non ce la fa a divenire essa stessa, sempre fonte di vita. Ed ecco il tuo istinto che mi lancia verso una costellazione leggera come una farfalla, composta di musica e arcobaleni. E le sue mani stringono le mie, aggrappate alle due canne dell'aulos. Ci riesci, Shalim, a ricordare la melodia che ho cantato? Io non saprei scriverla. Io sto tremando. Non la dimenticherò mai. È impressa nella mia mente, signora. Come vorresti chiamarla, Shalim? E stringe al petto la cetra. La costellazione della musica. E abbandona i suoi occhi per l'orizzonte che si sta spegnendo. Lo sfolgorio del sole è svanito. Restiamo a lungo a fissare il mare, in silenzio, fino a quando i due cavalli, senza averli chiamati, si avvicinano a noi. Nella mia borsa, a tracolla, ripongo l'aulos, la cetra, i fogli di papiro e i gessetti di cera. Aspetto che Ipazia si sciolga dall'abbraccio del tramonto che la tiene imprigionata sulle scale del tempio di Poseidone. Braccia attorno alle ginocchia, sguardo perso nell'orizzonte, intessuto di brezze azzurrine. Poi si libera dai sospiri del mare, si alza Corre come una bambina felice verso il cavallo nero, con un balzo gli salta in groppa e lancia lo splendido animale al galoppo lungo la riva. A nulla valgono i miei richiami, la supplico di non correre. Il mio cavallo non ce la fa a starle dietro, ma lei, oh, vola libera nel vento. E solo quando affronta l'istmo dell'eptastadio si decide a rallentare, ad aspettarmi e a permettermi di affiancarla.